penso in nich e non li ritrovo più. Non apro gli occhi per chiamarti indietro e rivedere la mia fantasia. Spirito, libero, e sto contento quando mi parli dentro. Oh, come dai, libero. Contento quando mi parli dentro. Il mondo è storto, ci ho capito il mondo e ruba la mia fantasia. Prova a smontarlo con un sorriso, te, da solo ciò che so, che il mondo è un cannibale. Spirito, libero, e sto contento quando mi parli dentro. Ancora me, libero, spirito, e sto contento quando mi parli dentro. Oh, oh. Se la scintilla che scatena l'intensità, fratello libero, sei il genio della lampada. Cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei, e il problema è un labirinto fantastico. Oh, ah, hey, ah, uh. Starto, gioca col morto e ruba la mia fantasia. Prova a smontarlo con un sorriso, ma solo gioco che sa che il mondo è un cannibale. A spirito sei libero e sto contento quando mi parli dentro. Ancora su, libero, spirito, e sto contento quando mi parli dentro. Oh, oh, oh. C'è la scintilla che scatena l'intensità. Fratello libero, sei genio della lampada. Cambia la rabbia dal mio corpo quando ci sei, e il problema è un labirinto fantastico. Oh, ah, hey, ah, uh, ah, hey. Oh, ah, hey. Solo gioco che so, è solo gioco che so, solo gioco che so, è solo gioco che so, è solo gioco che so, è solo gioco che so, solo gioco che so, solo gioco che so, sarà già, sarà già, sarà gioco che so. Spirito libero! Grazie! Ma vieni via così!